Buonasera, mio signore. Buonasera, buonasera. Buonasera, mio signore. Presto andate via di qua. Buonasera, mio signore. Buonasera, buonasera. Buonasera, mio signore. Presto buonasera, mio signore. Buonasera, buonasera. Buonasera, mio signore. Presto andate via di qua. Buonasera, vendicore. Buonasera, buonasera. Buonasera, vendicore. Poi di chi si parlerà? Maledetto seccatore seccatore, maledetto seccatore seccatore, maledetto. Buonasera mio signore, buonasera mio signore, oggi sono in sanità. Maledetto seccatore seccatore, maledetto seccatore seccatore, maledetto. Buonasera mio signore, buonasera mio signore, buonasera mio signore, oggi sono in sanità. Crepar.